Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nasce la banca del mezzogiorno, via libera del Consiglio dei Ministri, allo studio anche il rilancio del turismo grazie ai casinò. Banca Italia, la crisi si è fermata anche in Italia, PIL in crescita nel terzo trimestre, preoccupano conti pubblici e disoccupazione. Mai pagato i talebani, il governo denuncia il Times di Londra. Calcio, CT inquieti, Lippi e Maradona, parole di fuoco dopo i successi di Italia e Argentina. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. Subito a Palazzo Chigi, ministro Tremonti al termine del Consiglio dei Ministri. Le poste. C'è anche la possibilità che le poste svolgano una funzione complementare o sussidiaria o contrattuale al servizio di questa struttura di banca. Dobbiamo, e questo è il ministro dell'economia che sta illustrando le caratteristiche della banca per il mezzogiorno, è forse il piatto forte di questo Consiglio dei Ministri che si è riunito in mattinata. In primo piano anche i dati della Banca d'Italia, come avete sentito il PIL italiano nel terzo trimestre ha ripreso a salire, quindi si interrompe la recessione. Andiamo però per ordine, andiamo a Palazzo Chigi con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Il ministro dell'economia Tremonti ha dunque confermato la notizia del via libera alla Banca del Sud. La banca dovrà aumentare la disponibilità di credito nel mezzogiorno, l'unica parte d'Italia, ha detto Tremonti, senza banche proprie, perché le banche che in origine erano meridionali sono state progressivamente trasferite al nord. La banca prevede l'emissione di bond per canalizzare il risparmio a sostegno di progetti imprenditoriali, anche per incrementare l'occupazione. Avrà come socio fondatore lo Stato, che si sfiderà dopo 5 anni. Il ministro per lo sviluppo Scajola sarà il coordinatore del piano complessivo per il Sud. Sul tavolo di questa mattina anche il decreto legislativo che introduce la class action per la pubblica amministrazione, è stato dato il via libera. Non sarà possibile però ottenere risarcimenti per danni dovuti a ritardi o errori. Sul tavolo anche un decreto legge per il rilancio del turismo che contiene quella proposta di aprire casinò negli alberghi 5 Stelle, ancora non si ha però notizia della sua approvazione. Per il momento da Palazzo Chigi è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, sentiamo ancora qualche parola del ministro dell'economia Tremonti. Noi pensiamo che nella strategia di sviluppo del mezzogiorno una mossa è quella dell'affidamento al privato, una mossa è quella del credito per la piccola e media impresa. E sulle caratteristiche della banca per il mezzogiorno che oggi il Consiglio dei Ministri ha varato, queste le parole di Tremonti, sentiamo invece il commento dell'economista Alberto Quadro Curzio, professore alla Bocconi, economista all'Accademia dei Lincei. La mia opinione sulla banca del mezzogiorno si è modificata nel tempo, in quanto all'inizio non era favorevole. La modifica è dovuta a due elementi almeno. Innanzitutto la banca del mezzogiorno sarà una banca di secondo livello, non avrà quindi una sua rete utilizzando quella delle poste e quella delle BCC. Sarà una banca con azionariato di altre banche operanti nel mezzogiorno e di altri soggetti, nella quale lo Stato sarà il soggetto promotore ma ne uscirà in breve termine. In secondo luogo vedo come interessante questa emissione di obbligazioni da collocare presso i risparmiatori del mezzogiorno con un'aliquota sugli interessi del 5% invece che del 12,50% e con un plafond per 100.000 euro. Potrebbe essere uno strumento importante per canalizzare il risparmio verso il finanziamento delle piccole e medie imprese. Dunque credo che il cambiamento in corso di opera sia stato molto significativo e vedo con una certa fiducia questa iniziativa. Così il professor Alberto Quadro Curzio. E per quanto riguarda invece le reazioni nell'opposizione, con un governo così ci vuole più opposizione, ha detto il leader del Partito Democratico Franceschini, mentre per quanto riguarda la maggioranza c'è da registrare un incontro tra il presidente del Consiglio Berlusconi e quello della Camera Gianfranco Fini dopo le tensioni degli ultimi giorni. Andiamo con ordine, Elisabetta Fiorito. Meme sprisce lo scontro tra gli schieramenti dopo la bocciatura sul lodo Alfano, ma sullo sfondo ci sono anche le primarie e la competizione sempre più serrata tra i candidati per il 25 ottobre. Questa mattina il segretario del PD Dario Franceschini spiega la sua linea: qualora fosse riconfermato è necessario fare più opposizione al governo, spiega Franceschini, ad un esecutivo così non si offrono pacche sulle spalle o tregue, ad un governo così si fa più opposizione. La protesta e la rabbia, passi successivi alla paura e alla disperazione, finiscono per assumere forme estreme. Abbiamo visto operai sulle gru, precari sui tetti, poi non abbiamo visto più niente perché chi controlla l'informazione ha ordinato di spegnere le telecamere, ma quegli operai ci sono ancora. E dopo il distinguo sui PM e no ai magistrati sottoposto all'esecutivo, il presidente della Camera Gianfranco Fini sta incontrando a Montecitorio il premier Silvio Berlusconi. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, è intervenuto anche il capo dello Stato questa mattina. Rimango un potere neutrale, tutti i presidenti hanno una storia personale, ha detto Giorgio Napolitano a Torino ricordando Norberto Bobbio e tornando sulle polemiche seguite alla bocciatura del lodo Alfano. Serve più equilibrio e rispetto per le istituzioni, ha detto Napolitano, vado avanti, fermo e sereno. E il tema della giustizia resta caldo. Ieri l'intervento di Fini, che ha auspicato, come sentivate, una riforma condivisa della giustizia, è un tema che resta in primo piano anche per le decisioni del CSM. Sentiamo. Il plenum di Palazzo dei Marescialli ha promosso Raimondo Mesiano, il giudice del Tribunale Civile di Milano, che ha condannato la Fininvest al risarcimento di 750 milioni di euro a favore della CIR di De Benedetti per la vicenda del lodo Mondadori. Con una delibera che ne sottolinea indipendenza, imparzialità ed equilibrio, Mesiano ha ottenuto la settima valutazione di professionalità, il massimo grado che un magistrato può ottenere durante la sua carriera. Il provvedimento sarà retroattivo e comporterà un aumento di stipendio. Subito è scoppiata la polemica con il PDL, che accusa il CSM ad aver premiato Mesiano proprio per quella sentenza, e lo stesso CSM è costretto a spiegare con una nota ufficiale che non c'è nessuna relazione tra l'avanzamento di carriera e quella decisione giudiziaria attaccata dalla maggioranza. La promozione di Mesiano era passata in commissione il 24 settembre scorso, prima della sentenza sul lodo Mondadori, che risale al 3 ottobre, ed è stata licenziata all'unanimità dalla quarta commissione presieduta dal laico di Forza Italia Michele Saponara. Il plenum del CSM, oltre a quella di Mesiano, ha deliberato la settima valutazione di professionalità per Felice Casson, il magistrato oggi fuori ruolo perché eletto senatore per il PD, e la quinta valutazione di professionalità Lanfranco Tenaglia, altro magistrato fuori ruolo, responsabile giustizia del Partito Democratico. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo al nostro sondaggio di oggi. Vi abbiamo chiesto se eravate contrari o favorevoli alla bocciatura da parte della Camera alla legge sull'omofobia. Sentiamo questi i risultati. La legge sull'omofobia, bocciata dalla Camera, ha diviso i nostri ascoltatori. Vi chiedevamo oggi nel nostro sondaggio se ritenevate giusta la decisione. Il 55% di voi ha detto di no. È una legge, quella che intendeva inasprire le pene per chi compie un reato nei confronti di una persona motivandolo con l'orientamento sessuale, che ha creato anche mal di pancia notevoli nel PD con il caso Paola Binetti, unica a votare contro la linea dettata dal partito. E oggi la stessa Binetti sul suo futuro nel PD resta vaga. Vedremo che cosa ci fanno anche gli altri, no? Mi sembra un discorso molto articolato. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo, come anticipavamo in apertura, ai dati economici. Con il bollettino della Banca d'Italia, il PIL italiano è tornato a crescere dopo 15 anni di caduta libera. L'intensità della ripresa però rimane incerta. Lo scrive appunto la Banca d'Italia nel suo bollettino, secondo cui nel terzo trimestre la crescita è stata di circa l'1%, significativa la ripresa della produzione industriale ad agosto. Preoccupano però i conti pubblici, la disoccupazione, il deficit è infatti è in forte deterioramento, mentre il numero di occupati è diminuito dello 0,3%, pari quasi a 60.000 disoccupati in più. E notizia di questa mattina: è stato chiuso il contratto dei lavoratori metalmeccanici, accordo separato. Vincenzo Miglietta, quali sono i dettagli? Buongiorno. Sì, buongiorno. L'intesa prevede un aumento retributivo medio di 112 euro, equivalente a 110 euro per il quinto livello. La prima parte dell'incremento sarà in busta paga dal prossimo gennaio e sarà di 28 euro, la seconda sarà di 40 euro dal 2011 e la terza di 42 euro nel 2012. L'elemento perequativo, ossia per chi non fa contrattazione aziendale, salirà dal 1 gennaio 2011 di 15 euro. Nell'accordo, che ricordiamo vede la firma di Federmeccanica, SIM, CISL, WILM e non della FIOM CGL, si prevede anche l'aumento della contribuzione Cometa. È stato istituito poi il fondo di sostegno al reddito, chiesto sempre dai sindacati, che prevede il versamento di 2 euro a carico dell'azienda per i primi 2 anni per tutti i lavoratori. Di accordo molto buono e responsabile parla dagli industriali il presidente di Federmeccanica Ceccardi. Un contratto che premia le buste paga, dicono CISL e WILL. Un'intesa vergognosa invece secondo la FIOM CGL, per la quale così si svaluta il lavoro dei metalmeccanici. Soddisfazione da parte del ministro per Sacconi, che si dice però dispiaciuto per quella che definisce l'auto-esclusione della FIOM. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato Maria Angiolillo, la regina cosiddetta dei salotti romani, scomparsa ieri, una signora d'altri tempi, ha scritto Napolitano parlando del suo senso di cortesia e di apertura. Era diventata famosa soprattutto grazie alle cronache delle sue serate fatte dal sito Dago Spia e alle foto di Umberto Pizzi da Zagarolo. Sentiamo il fotografo al microfono di Marta Cagnola. Una vera signora. È vero che nel suo salotto si facevano affari, ma lei era la direttrice di questi affari, cioè la coordinatrice, poi gli altri facevano gli affari, ed era una donna estremamente gentile. Soltanto quando stavo fuori la sentivo un po' che urlava, si arrabbiava, ma poi la rincontravo fuori il giorno seguente, un baciamano e poi tutto era tranquillo. Pizzi, adesso lei che uscio sceglierà? Guarda, a Roma ci sono state sempre queste dame importanti che riunivano i potenti, ma la Maria Angiolillo riusciva a fare il salotto bipartisan, per cui secondo me finisce un'epoca. E adesso uno dei più probabili è Bruno Vespa, però perché c'ha una casa a 3 piani anche lui, ma non è una palazzina, dove raduna anche lui bipartisan la gente. 13 e 16 minuti, ben ritrovati a GR24. Nella prima parte ci siamo occupati del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla Banca per il Mezzogiorno. Abbiamo sentito le prime parole del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Allo studio del Governo anche misure per il rilancio del turismo, grazie tra l'altro al via libera a nuovi casinò. E poi i dati della Banca d'Italia: la crisi si è fermata anche nel nostro paese, infatti il PIL, il prodotto interno lordo, ha ripreso a crescere più 1% nel terzo trimestre, anche se preoccupa la disoccupazione. E sul fronte occupazione, la notizia di poco fa, è stato firmato il contratto dei metalmeccanici, un'intesa separata, FIM WILM esclusa la FIOM, la firma invece con la Federmeccanica. Adesso andiamo all'Afghanistan. Ho dato incarico al mio capo di gabinetto, generale Abrate, di procedere ad affidare ai legali il compito di denunciare il Times. La difesa avvierà dunque un'azione legale contro il Times, che ha pubblicato la notizia secondo cui i servizi segreti italiani avrebbero pagato i talebani perché non attaccassero i nostri militari nella regione di Sorobi, in Afghanistan, prima del passaggio della base avanzata ai francesi, i quali successivamente in un'imboscata persero 10 uomini. L'accusa è assurda, ci dicono fonti militari, perché è risaputo che se c'è un campo in cui ognuno agisce in proprio è proprio quello dell'intelligence. Una parte di informazioni viene condivisa, ma per il resto nessuno Stato è tenuto a rendere conto agli alleati del suo modo di agire. L'affermazione che i nostri servizi pagassero gli insorti della zona deve poi essere provata, ma anche ammesso che sia vero, ciò non implica che l'Italia dovesse informare gli alleati, i quali a loro volta non informano nessuno. Cristina Ballotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E questo per quanto riguarda la polemica. C'è anche la cronaca che ci porta in Afghanistan, perché nella notte un militare italiano è morto in un incidente avvenuto nel corso di uno spostamento operativo da Herat a Shindand. La vittima, primo caporal maggiore Rosario Ponziano, di 25 anni, di Palermo, del 4 reggimento paracadutisti, si trovava a bordo di un lince che si è ribaltato. Adesso invece torniamo in Italia con la cronaca, perché il capo della polizia Antonio Manganelli ha chiuso la questione della scorta a Roberto Saviano. La scorta per lo scrittore Roberto Saviano è necessaria, non si pensa ad una sua riduzione ma a un suo rafforzamento. Elimina così ogni timore il capo della polizia Antonio Manganelli. In una nota viene precisato che sono state confermate le misure di protezione già in atto e disposte misure ulteriori nei confronti delle persone esposte al pericolo di azioni violente da parte di organizzazioni criminali, a cominciare dallo scrittore. Una nota che in pratica prende le distanze dalle dichiarazioni del capo della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani. In un'intervista a Magazine ha detto di aver dato parere negativo alla scorta per l'autore di Gomorra e che bisognerebbe avere il coraggio di cercare la giusta causa delle minacce. Sebbene Pisani aggiunga di non sapere quali siano, dice che ci sono regole deontologiche da seguire quando ci si rapporta con la criminalità organizzata, come il rispetto della dignità umana. E poi dare un'immagine eroica della vita sotto scorta potrebbe essere controproducente. Dichiarazioni di un dirigente abituato a misurare bene le parole che scatenano polemiche e preoccupazioni. Intanto in Parlamento c'è chi annuncia interrogazioni al ministro Maroni per sapere se i concetti espressi da Pisani collimino con la linea politica del Viminale. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Parliamo di inquinamento e di aria pulita, purtroppo non molto pulita in Lombardia, dove da oggi scatta il blocco della circolazione per gli Euro 0, 1, 2 e i diesel. Si tratta di un provvedimento per contrastare le emissioni di PM10 nell'aria. Attualmente il superamento dei valori limite in vigore in Europa riguarda in tutta l'Europa 83 milioni di persone, molti paesi europei. Sentiamo. L'Italia, assieme ad altri 10 paesi europei, è fuori legge per quanto riguarda le emissioni di PM10. Ha ricevuto una lettera di diffida per non aver ancora rispettato i limiti in vigore dal 2005. Si tratta del secondo ammonimento, dopo il quale c'è solo il deferimento alla Corte europea. Abbiamo tempo ora fino al 2011 per metterci a posto e per poter sostenere i parametri sulle polveri sottili. Ma siamo molto indietro su tanti fronti, anche se le cose in qualche modo si stanno muovendo. Come il piano aria approvato dalla Regione Lombardia, si tratta di un progetto di incentivi decisi per la sostituzione dei vecchi veicoli con mezzi a minore emissioni e per l'installazione dei filtri antiparticolato su veicoli commerciali. 20 milioni di euro da distribuire tra coloro che hanno un'auto o un furgone Euro 0, 1, 2 o diesel, vorrebbero cambiarlo ma non possono. Il contributo è di circa 3.000 euro per ciascuno. Per le piccole aziende si tratterà di incentivi cumulabili con quelli statali. Le auto vecchie saranno rottamate. In Lombardia ce ne sono ancora 80.000 e da oggi per loro scatta il blocco della circolazione, ma contestualmente chi vorrà potrà far partire il riscaldamento in casa. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è arrivato l'inverno anche nelle tendopoli dell'Aquila. Il freddo impedisce a più di 6.000 persone ancora senza casa di passare altro tempo proprio nelle tende. Il sindaco Massimo Cialente ha dovuto invitare gli accampati a trasferirsi in alberghi in attesa delle casette che saranno pronte ma che non sono ancora pronte. Sentiamo Cialente al microfono di Floriana Liuni. È un freddo cane, quindi abbiamo detto tutto. È assolutamente necessario questo discorso, che purtroppo abbiamo dovuto chiedere a persone che da 6 mesi erano nelle tende di momentaneamente allontanarsi, perché io spero nel giro di 2 mesi di sistemare poi pressoché tutte. Però 2 mesi, che sono i tempi di consegna sia delle case Berlusconi sia delle case che ho ottenuto adesso io, questi 2 mesi non è possibile stare in tenda. In tendopoli quanta gente c'è ancora adesso? Penso che complessivamente siano 6.500 crudele, ma è una situazione sostenibile. È il freddo che stamattina c'era il ghiaccio sulle automobili. Bisogna trovare queste due e poi correre con le consegne a gas. Adesso bisogna superare questi 2 mesi. Superati questi 2 mesi penso che arriveremo a consegnare circa 6.000 appartamenti, compresi quelli del fondo. Credo di avere intorno a 6-7.000 famiglie che non so quando rientreranno. E a questi qui io gli ho detto, dopo tutto quello che avete passato, adesso andate a 100 km di distanza. Così dunque il sindaco dell'Aquila sulla situazione maltempo, il freddo che preoccupa gli abitanti che ancora stanno nelle tende all'Aquila in Abruzzo, appunto. Adesso siamo allo sport con il calcio, parliamo di due allenatori vincenti sul campo, dai modi però piuttosto rudi, fanno discutere infatti le dichiarazioni al vetriolo di Lippi e Maradona dopo i successi di Italia e Argentina nelle qualificazioni mondiali. Uno si è presentato in elegante divisa scura, l'altro con una t-shirt spiegazzata. Uno ha bacchettato in italiano i propri tifosi, l'altro ha insultato in spagnolo i giornalisti argentini. Marcello Lippi e Diego Maradona, divisi da look, lingua e obiettivi, uniti dagli sfoghi del dopopartita. Il CT azzurro se l'è presa con il pubblico di Parma, reo di aver fischiato la squadra sotto di 2 gol contro Cipro, nella partita poi ribaltata sul 3-2. Sono incazzato come una bestia. Alle prime difficoltà che ha questa squadra, gli si grida andate a lavorare. Oppure Lippi, vaffanculo e chiama quello, chiama quell'altro, chiama altri giocatori. Secondo me è una cosa vergognosa. Maradona, dopo l'1-0 con l'Uruguay che ha qualificato la sua Argentina ai mondiali, in campo ha esultato, pianto, in sala stampa ha invitato i giornalisti locali, in passato critici nei suoi confronti, a pratiche non traducibili. Al che non creia o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Appuntamento in Sudafrica allora per Lippi e Maradona. Quel che è certo è che sarà un mondiale, almeno a parole, per gente tosta. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo a un appuntamento, si apre oggi il Capri Trend Watching Festival, 3 giorni di incontri voluti dalla Fondazione Capri per delineare le tendenze emergenti negli stili di vita. Quali saranno gli stili di vita del futuro? Quanto di quello che sta accadendo oggi nel mondo della moda, del design, della progettazione degli spazi urbani, della tecnologia cambierà le nostre abitudini di vita e di consumo? Sono alcune delle domande a cui cercheranno di dare risposta imprenditori, artisti, architetti, designer e anticipatori di tendenze nel corso della prima edizione del Capri Trend Watching Festival. 3 giorni di incontri e tavole rotonde in cui si confronteranno ospiti come lo scrittore di fantascienza Bruce Sterling, la guru della moda Lee Edelcourt, l'eco imprenditore fondatore di LifeGate Marco Roveda e poi ancora l'architetto della casa ecologica a basso costo e zero emissioni Mario Cucinella, il filosofo Fulvio Carmagnola, l'antropologo dello street style Ted Polemus e Chris Anderson, direttore di Wired, il celebre mensile americano divenuto punto di riferimento su tecnologia e nuovi media. Tutti a discutere del presente per delineare i contorni del futuro, come vuole lo slogan del festival Tomorrow Now, il domani ora. La curatrice Elena Marinoni. Il futuro non è qualcosa che succede tutto in una volta e improvvisamente ci sorprende. Segni di futuro sono disseminati intorno a noi. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessio Maurizi, al coordinamento Daniele Biacchessi, regia Carmelo Lauricella. Adesso c'è Stefano Pistolini, buongiorno America. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.